Tutto chiaro? Proviamo. A. Ascolta e completa il dialogo. Paolo è un medico. Paolo ha molti impegni. Ha un'agenda piena di appuntamenti. Ha molti amici, ma non ha molto tempo per loro. La mattina è all'ospedale molto presto e qualche volta è occupato anche la domenica. Paolo è sposato con Elena. Paolo ed Elena hanno due bambini, Matteo e Lucia. Matteo ha 5 anni, Lucia ha 9 anni. Paolo ed Elena hanno una casa con un piccolo giardino. Quando Paolo ha un po' di tempo libero, è spesso nello studio. Ha sempre voglia di studiare e leggere le riviste di medicina. Paolo, Elena, Matteo e Lucia hanno un cane, Alfio. Luciano è un architetto. Ha un piccolo appartamento in città. Non è sposato. È fidanzato con Cristina. Anche lei è architetto. Luciano e Cristina hanno bisogno di un appartamento grande per aprire uno studio insieme. Hanno molte idee, ma non hanno molti soldi. Luciano ha molti fratelli e sorelle, 3 sorelle e 2 fratelli. Luciano e Cristina sono spesso con loro. Un fratello di Cristina ha un'agenzia di viaggi e anche se ha offerte molto convenienti, Cristina e Luciano non partono mai, perché Luciano ha paura di volare.